Ma lo stai uscendo? Sto uscendo, no, perché sta provando un portatile. Ah, ecco. Dai, dai. Non è come il radio. Fa un passaggio. Va a vedere, 1, 2, 3, prova. Adesso va bene. Forse che non ero che accende per io. Forse l'hai abbassato bene il PCC e fa il passaggio. È mancato 2-3 volte, dai. Per quello bisogna che ci affossi, no? E entra con l'altro, dai. Beh, ti sento bene anche con quello. Ah, ti arrivi benissimo. Oh, bisogna che c'ha troppo e a me mi duri la mano così. Ma con l'antenna sua stai uscendo? No, c'ho l'antenna, l'antenna esterna. Ah, ecco perché. Mi sembrava strano. Cazzo, a uscire usi bene. Cazzo. No, va bene, sto. Attacco l'altro. Attacca, attacca. Sei fuori, sto, sei fuori. Se no come te ci già credo. Infatti, sei tu che non hai commutato. Se no come te ci no che no. Oh, anda. Ma infatti. Infatti. In effetti. No. Che dal 2 ero sul 3, sono passato sul 2. Chi è che me? Chi è che fa l'entrare avanti? Ti hanno messo la portata e to. Lo sabbia io. So pisciando a me stasera. Avanti che mi vuole mettere la portante. Ma che importante sei, non c'è niente importante, tu sei ruda. Attenda signor Bacchisio, catta, non uso guio. Ciao signor Bacchi, buonasera. Buonasera anche a me, buonasera, buonasera anche agli altri. Ma c'è la Somalia. Dai, un attimo di corretti, sto cambiando il toro. Toro? Ma quello che c'ha le corna oppure l'altro? Ah, c'ha lo caldiare, buonasera, signor Bacchisio. Come muove andiamo, Giomari? Ehi, lui ha due buzzetti, vai male. Ciao Giomari, buonasera. E ciao lui, buonasera. Beh, cosa hai combinato tutti? Nuda mi docca, nuda. No, mi ha fatto una spesa, Gio Mari. Aspetta, a fare la spesa, siamo rientrati poco fa, dai. Allora, mi sono dato una sciacquata, adesso mi vesto, che c'è freddo qua. E c'è un freschetto, e c'è via fredda. E io ho già la tutto, perché già sono già in caldo io. No, qua ancora niente. Attacca, attacca, che c'è freddo, vero sto? Ma io che entrato in casa ancora non intendo freddo freddo, quindi... Io l'ho acceso, poco fa, all'estero l'ho acceso. Senti un po' l'umidità, io ci chiedo, questo l'accendo, già l'ho acceso. Ah, due, già, così, al minimo, già va bene. E un paio d'ore qua ci sta bene. Luca, buonasera. Marco, un piacere ti devo chiedere. Luca, ma io devo rispondere io, no? Ah, Gian Maria, è andato Ginne. È che si sta cambiando, mi sembra. Dice che è entrata adesso a fare la festa. Luca, si sta cambiando, vai, adesso che si sta cambiando. Ehi, hey, Giovanni, ciao Tore, sì, sto passando Giovanni, ciao più freddo. Aspetta che ci vuole il Tore. Sì, Atto, dimmi tutto, cosa c'è, cosa ti ho fatto, dimmi. No, non mi hai fatto nulla, un piacere di raggio di domanda. Puro due, dimmi, se posso non ci sono problemi, dimmi. C'ho 5 hard disk da formattare. Però Nero mio me li riconosce il computer, però non me li fa vedere. Se non ti fa vedere vuol dire sono danneggiati. Capito, sono danneggiati. E che hard disk sono? No, sono nuovi, girano e coso. Con un programma, però bisogna recuperarlo il tuo programma. Con il programma riesco a vederlo e tutto. Invece nel computer me li riconosce, però non li vedo. Adesso sono da formattare, sono nuovi. Ma scusa un attimino, se non te li fa vedere nel computer vuol dire un problema c'è. No, quando i dischi sono nuovi non te li fa vedere. Hai compreso? Nel computer non te li fa vedere, devi entrare sul BIOS e farli formattare dal BIOS. Oh, dal BIOS, non mi ammetto più come ti funziona. No, allora, ma sono nuovi al negozio o sono usati? Nuovi. Cosa devi formattare, scusa, se sono nuovi? Fammi capire. Perché i computer quando li compri vogliono formattati, così ne avevo fatto uno io lo stesso, quando l'avevo comprato, ma l'avevo fatto formattare da lui, hai compreso? L'avevo formattato, quando sono nuovi i computer vogliono formattati prima di usarlo. Ma non saprei cosa risponderti, non... è la prima cosa che sento, io sono anni che lo faccio, Forse magari devi installare, non formattare, installare, quando sono nuovi, che sono vergini, devi installare, non formattare. Oh, vanno formattati prima, quando io l'ho comprato in negozio tanti anni fa, l'avevo chiesto a vedere, è andato a casa, l'ho piazzato, ma lo riconosceva però non me lo faceva vedere. Allora sono tornato al negozio, me l'ha fatto formattato lui dal BIOS, sono andato l'indomani a prenderlo, perché non era cosa subito da fare, l'ho preso. Allora, il discorso è questo, se non te lo riconosce il computer, mi sembra strano, te lo deve leggere. Tu come lo attacchi per sapere se te lo legge? Lo inserisci nel computer direttamente o lo attacchi tramite USB? Tramite USB, però me lo riconosce, però non me lo fa vedere. Se non te lo fa vedere è danneggiato. Io ti dimostro a te che io prendo un hard disk, ce l'ho anche a casa, te l'ho reso davanti e ti faccio vedere che è vuoto e me lo riconosce. Quelli se non te li riconosce vuol dire che sono danneggiati. È nuovo, me l'ha dato uno, dico. Me l'ha dato uno, me l'ha aggiungo. 5 ne ho. Tutti e 5 sono così, li riconosce però non me li fa vedere. E sono nuovi. Quindi non sono danneggiati. Perché con il programma che ho lo vedo, però siccome per continuare a formattarlo bisogna pagare. E quindi non posso farlo. Hai capito? Col programma me lo riconosce e lo vedo. Però facendolo così me lo riconosce ma non lo vedo. Perché vuol dire che è una carriola senza ruote. Boh, mi sembra strano, Tore, mi sembra un bel strano. Di quello che mi stai dicendo mi sembra un bel strano, perché io ti ripeto, ti dimostro. Che c'ho un computer, lei vai a cuccia. C'ho un hard disk, lo metto nel computer, l'ho formato. E me lo vedo lo stesso, anche se c'è roba dentro, lo deve vedere per forza. Io non so come si formatta, però se non vede il computer vuol dire che è danneggiato. Comunque fammeli avere e io te li controllo, non c'è problema, segnateli, se non ti fidi, fa un segnettino e io te li controllo tutti e 5. C'ho un metodo come fare, ma sono sicuro che se non li legge il computer sono danneggiati. Fammeli avere quando vuoi. Ecco. Sì, un attimo. Guarda, te lo sto dicendo perché sono da formattare, sono. Ma aveva fatto questo qua quando l'ho comprato, ma l'ha formattato lui, perché quando sono nuovi, quando li attacchi, no, li riconosce ma non lo vedi, ecco cosa è. E così mi ha formato, l'ho portato da questa qua, ma siccome per il coso mi ha detto che è chiuso e per il momento non sta aprendo perché non c'è lavoro. E allora se ne è disarrato. Dal primo dicembre ha detto che riapre, però se in coso, se ci riesci te ne do uno e me ne vai uno, invece tutti quanti gli altri. Vediamoci magari domani, di fare un salto magari qua, nella 25 arrivo verso mezzogiorno così, ma ci troviamo lì a metà strada, a piazza dei Tori, ma lo porti, ripeto, quando un hard disk lo compri è vuoto, non c'è niente dentro, non va formattato niente, te lo posso garantire perché lo so, sono in mezzo da tanti anni. Io ho comprato, adesso facciamo entrare il break con le scuse, io ho comprato un SSD, dea vai a cuccia, e l'ho messo nel computer e mi sono installato il sistema operativo, l'SSD. Adesso tu mi devi dire questi hard disk che serie sono. Boh, quello se ne ammenta. Aspetta un attimino, fallo entrare il break, vai. Avanti il break. Buonasera a tutti, Marco, scusate l'intromissione. Allora Luca, l'ha fatto anche a me, con hard disk nuovissimi. Allora, sono partizionati, sono formattati in un formato che il sistema operativo non riconosce. Nel mio caso era XP. XP non leggeva questa formattazione nuovissima che invece Windows 10 vede, capito? Tutto lì, cioè riconosce l'hard disk ma non vede il contenuto, non vede che è vuoto, capito? Perché non riconosce la partizione, la formattazione. Probabilmente li deve attaccare a Windows 10 e formattare con un formato familiare a Windows, a XP o 7, quello che è. Vai Luca. Oh, ah, scusa un attimino, allora, quello che dico io è, cioè io ho il case, quelli piccolini, no, per gli hard disk piccolini, sicuramente questi titoli sono di portatili, e sicuramente la serie esatta non è la serie IDE, come cazzo si chiama, quella appunto, diciamo, quella versione vecchia, ecco, come si dice, comunque sia, se io lo metto in un, come si chiama, un case, e lo attacco tramite USB, ma lo deve leggere per forza, io te lo posso dimostrare come vuoi, quando vuoi, e dentro non c'è niente, mi sembra strano che se glielo fa installare non glielo fa leggere, vuol dire che sono danneggiati, comunque fammene avere uno e così ti do la confermazione, non c'è problema. Allora, questo qua è Seagate. Seagate, ho capito, sì, Seagate. E l'attacco come, a punta o piatto? L'ultima generazione, figli di quel gavetto a rughio. Aspetta, ma sono grandi di fisso, portate di computer fisso sono? Cioè quelli grandi o quelli piccoli? Quelli grandi sono. Ah, quelli grandi sono, ho capito. Sì, già c'ho il case di quello anche. E ne hai 5. Bello. Questo, guarda, questo è nuovo nuovo dentro la busta. Dentro la busta. Leggi da quanti giga è? Un T-byte. Come? Da 1000. Ah, un terabyte, ho capito, 1000 giga. Tutti e 5 da 1000 giga sono. Bello. Cavolo. No, fammi avere uno così, io lo provo. Io ce l'ho il case a casa, tu ce l'hai il case da mettere dentro per farlo andare? Sì che ce l'ho, però con quelli, con Giolino, ci ho provato oggi, ho il cavetto, il coso suo proprio per provarli. E l'adattatore ce l'ho capito, là. No, fammene avere uno così io te lo conferma. Io ne ho uno a casa, lo stesso, da 1000 giga, messo in questo case, sempre di quella serie lì, sai che anche il mio è Seagate. Solo che ti dico una cosa, se tu installi il sistema operativo non te lo fa installare, cioè te lo fa installare e poi si blocca, ti dice che l'hard disk è danneggiato. Allora lo sto usando come hard disk, a me ci metto roba dentro, c'è molta roba, foto e tante cose dentro ci ho messo, capito? Fammelo avere uno o domani, così tanto sono tutti quanti nuovi e ti do conferma se funzionano o meno. Poi se me lo fa leggere come dico io, che me lo fa installare, allora te lo riformato. A me mi interessa formattarlo questo qua perché secondo come va ci metto Windows 10 dentro. Tu c'hai il computer fisso? C'ho 7, ma 7 no, non ci sono più i, come si chiama? Vabbè. E gli aggiornamenti, dai, vabbè, non vogliamo monopolizzare, dai, abbiamo monopolizzato un po' troppo. Vediamo un po' se c'è Marchisio. Cioè, sai, siete da Gio Franco, Fraci, sì. Franco, è scappato, Gio Maria. Ehi, sono qua, c'è anche Marco. Ehi, allora, riprendete voi allora, dai. Ehi, dai, saluto a tutti che sto cucinando. Luca, se poi passa sul 10 che ti spiego un attimo il conquibus. Ehi, va bene. Ciao, ciao a tutti, vai Gio Maria. Ciao Marco, buonasera. Vai, vai. Allora, Gio Maria. Ehi, ti dice poco battente Luca, poi ci colpiscere, però saranno. No Gio Maria, è che in quello che devo dare a mio fratello vuoi piazzargli o come si chiama, hard disk da 1000 vuole piazzargli. Ne facciamo a 320, però non rubo. E allora bisogna cambiarlo. E io non so, no, non è che me ne intendo di queste cose, guardo solo le figure non faccio altro, non le so fare, capito? Così che lascia voi a mattarmi un capo. L'ho fatto che mi avrà detto che è troppo esagerato. Esagerato è di gozzo. Oggi mi ha telefonato e me ne sono dimenticato di chiamarlo. Vabbè, se lo puoi fare a farglielo, così che almeno se c'è una cosa fatta, va. Vabbè, va, domani vi dimmo. Gli ho googlato a coso, se vi riesce a farlo, se no pazienza. Gli altri mi sa che sono in coso, però sul computer ISP. Domani provate quelli là a farlo con il computer ISP a vedere. È facile, fai così, io mi stai su domani l'aiuto e vedo un po' se lui con lui funziona o non funziona, capito? Per cui taglio domani mattina, vai. Domani glielo do, ti do questo che è nuovo e non... Io ripeto, non è che me lo intenda, so. Però ripeto, il compito quando l'ho acceso magari a cercare un baracchino, a cercare un cavo, a cercare qualche cosa che mi può interessare, se riesco. Ma per altre cose non mi dire niente perché non lo so come fare. Cazzo, si può immaginare, prima magari all'inizio riuscivo a fare qualche cosa. Adesso forse perché l'ho trascurato magari e lo uso magari ogni volta che fa, forse per quello. Gianmarì, come cosa di formattarlo? Un po' già ci riesco, ma è altra maniera, no? Ma adesso vedo un po' cosa deve fare Luca, dopo vedrai magari, va. Ok, vediamo un po' se c'è Bacchino. Bacchino si è sentato, ha detto un attimo i curricchi e forse sta facendo qualche cosa, dai. Gianmarì, ascolta, io mi devo assentare perché sto andando a prendere la signora. Ci sentiamo dopo, fra 20 minuti, un quarto d'ora. Si sta acceso qua, dalle 4 che è acceso, per cui. Sta acceso tutto, chiama quando arrivo. Ok, Gianmarì. Mi senti? Ti sento. Tu mi senti? Pio mi sta correndo avanti. Ma è Pio? Gianmarì, Pio sì, piccolino sì. Ah, come mai? Era solo piccolino. Adesso va benissimo, adesso si è alzato tutto la volta. Non ero io quello che ha parlato, capito? C'era qualche altro. Ah, qualche vampiro. Infatti, certo. Era qualcun altro, capito? Ma avanti l'altro amico. Buonasera, ciao Bacchì, c'è Giovanni, avanti. Hai visto che c'è Bacchì? Comunque buonasera, ben entrato, e buonasera anche a Marino, avanti c'è Marino. Sì, ciao Giovanni, signor Gigante, come andiamo oggi? Ciao Marino, buonasera anche a Giovanni. Come andiamo? Con i piedi, no? A quello dura girendi. Piano piano Bacchino, piano piano, un po' di pazienza, già passa anche questo, vai. Ok, avanti Giovanni. Fatto, bisogna andarci piano, se chi fa piano fa sano e fa lontano. Noi diciamo così e Marino. Ma non lo so come fa Bacchino. Piano piano, un po' una volta è già fatta, vai. La questione l'hai consegnata da qui. Tutto a posto. Aspetti la chiamata, no? Non so adesso quando si vuole passare, ti farò sapere. Bene, avanti, Giovanni. E allora, ma cosa ti racconti di bello? Però qua c'è stato qualcosa, niente, non sta. Oggi abbiamo lavorato, posto prima, sono con la visita, e così via. Giornata fatta, e noi siamo qua, tutto l'altro, tutto ok, e tu, sta a posto, sì. Per essere peggio, vedi, un po' più mal di gola, vedi, stamattina, io ho preso anche il coccolare, mi fa male la gola, io tendo anche la saliva, mi fa male la gola, boh. La temperatura sta calando, c'è un bel di temperatura, sta calando. L'ho già calato parecchio, ha messo l'acqua per domani, ha messo, figurati. Bene, bene, avanti, partito. Capiotto, e chi è? Luca! Mi ha profitto la domani perché sono nero. Però senza nessuno, partito. Mi sta battendo chi a te sia Marino, 0 riporto 0, 1 più 1 fanno 2, però non si vede nulla. C'è Luca, mi deve sentire meno 10, una cosa del genere. E tu attacca la caffettiera, Battista. Che non funziona? Attacca la caffettiera e fai il caffè. No, non ho capito, non c'è uno che ci parla sopra, porca miseria. Ma che religione è che caga? Avanti Marino. Ho detto, attacca la caffettiera, così ci prendiamo il caffè. Stasera? La caffettiera. Ah no, è possibile, sono partiti. La battista. Allora non lo so, io ma non ho capito che non sento nulla, adesso per il zero e il porto zero, di nessuno. Avanti Giovanni, voi siete troppo vicino. C'è sta parte del fuggibile, ma sì, sta a venire a fare, rifarlo. Il rifare dopo va a gonfia bene. Ce li ho sui fuggibili già pronti. Diciamo che non posso fare le scale, il problema è quello. Quello è grave allora, vabbè, ma già c'è qualcuno che riesce. Ma che mi fai un ma mi piace una cosa, mi amate Marì. Io so cosa bene non battisco, io so cosa bene. Nera, come il segnale, Bastia, lo vedi? Beh, due il segnale, però sono quel bastone di scoppa, però è. Due, grazie, così piccolo solo, e vabbè. Il telecamera che mi ascolti, poi il segnale se sbatte nulla, Giovanni. Avanti, gigante. Oh, mi ammazza, ogni capiotto, io non ho capito un H di quella che avrei due, Gio Maria. Zero di porto zero. Porca miseria, ragazzi. Ne approfitto perché sono nero. Non se la voglio appunto la roba. Avanti, Giovanni. Non la sento io, magari tu ce l'hai vicino, forse per quello, forse per quello, dammi niente, non con questo, con quell'altro, quando accendi, perché lui sta 10 entra su 23, evidentemente stava pompando e infatti quando pompa mi rompe. Magari è leggermente fuori frequenza anche, leggermente, e dunque entra. No, con questo, tutto l'889 e lo squelch è chiuso, ma entra lo stesso. Io penso si sente anche a baracchino spento. Allora, quello dico io, amico. Un attimo, fra. Magari forse è come hai detto tu, no, io sono nuovo, perché non sono né toccati né niente, per cui forse in più che saranno toccati, non so. A entrare vuol dire che c'è qualche cosa, perché io per esempio a Luca non lo sento, non lo sento per niente, magari tu ce l'hai più vicino, se è dalla ragazza è chiaro che è troppo vicino e si entra. Ok, avanti fra. Buonasera Giovanni, buonasera. Bacchizio è Marino. Certo, è tanto sono fragolese. Cantello di 7,5, la radio 5 perfetta più ottava. Va bene. Avanti gigante per Franco. Grazie, lo chiamo Franco, buonasera Franco, ben ascoltato. Non è che sei in mezzo al QRM, ma già ti ascolto. Va benissimo, avanti fra. Costruito? Come va la decisione? Sto andando bene. Santiago 7, 8, variabile. Però la radio è 5 perfetta. 7,5 fra, da 7 uscire a 7,5, da 7,5. Ma da 7 a 8, da 7 a 8, ero senza occhiali. E la radio è 5 perfetta qua. Bene, avanti Giovanni. Dio, il Santiago non è due di Santiago, vedi che c'è il Santiago tuo, anche tu arrivi due di Santiago, la radio è perfetta, ti bella dico già anche la tua Marina, per il tratto con la tua, bene, perfetta, anche con il Bacchino, però il segnale tiene poco, sono tutti lì fra. Beh, se sono col bastone della scopa, vede un po', certo, e l'antenna è, certo. E io riportate la radio, poi Santiago se ne fa benedire, che ha capito qua. Ok, vai Bacchì. Ehia, ottimo grigio, c'è la grigio. No, è buono, va benissimo. Per la mia zona va bene. Marino va bene lo stesso perché ti ascolto abbastanza bene. Dunque, come radio sei a cavallo. Avanti Marì. Poi, come segnale dipende sempre dalla radio, perché io ho battito. Ti accendo l'altro apparecchio, tu con questo apparecchio ti ascolto 9.5 e 9.10. Ti accendo l'altro apparecchio, ti ascolto Santiago di 7, 7 e mezzo, la Giovania o Santiago di 2, e a Franco non va più il basso. Quindi con questo è più dolce come segnale, è ottimo. Bene, non mi apparecchio stai più caldo, davanti fra. Vai passaggio che non senza piano, scusa poca roba, fra, poca roba. La radio è aumentata. La radio sì, come segnale per me è poca roba, la radio ha leggermente aumentato. Ma come segnale ha leggermente, là, proprio più. Va bene, avanti gigante. Sì, infatti, è aumentato qualcosa, non molto, qualcosa è aumentato. Mi si è portato via. Radio è un po' leggermente più squillante. Avanti ancora fra. Faccia così, se va bene fra, va benissimo, non bene, va benissimo, avanti. Non c'è da aumentare, ragazzi, non siamo a due facce, uno all'altro. Ma ci cerchiamo più bene di così, cosa per presente. Anche troppo, per cui siamo a due facce, uno all'altro, perché arriviamo abbastanza bene, per cui. Di Santiago, mandiamogli a farsi un giro di Santiago, capisco, per cui va bene così, così è Bacchino. E insomma lì, rimandiamo a Santiago del Cile e via. E no, per arrivare da Franco è un po' distorto, perché bisogna fare il curvo di Rogolento e poi fare la salita e arrivare da Franco. Guarda, non è sotto Franco, o Bacchino, non è Franco di sotto, Franco Alba, se sei questo qui. California, è perfetto, è cazzo, è perfetta. È sicuro di sì, avanti, li prendi? Anche sì. E io, buonasera California, non ti avevo conosciuto, sempre per Franco di sotto, la numerazione le confondo. Ecco, mi apri la bocca, e come, e poi, possiamo adesso, però... La prima adesso c'è qualche cosa è cambiato, ma poche niente, ma si riconosce subito, anche la mia si riconosce subito. La tua Giovanni si conosce anche dietro il muro, a voglia al 100%. Per un po'. Avanti, signor Marie. Mi sto allontanando 10 minuti, là, scusate, mi stavo chiamando, 10 minuti poi torno. Riprendi Franco. Va bene, va benissimo. A voglia. Io sto dicendo con la somma 27, era apparecchietto il presidente Barri, quello omologato, per cui va bene, hai visto? Piccolino ma va, ho fissato un altro già un paio d'anni, il 2000, CRT 2000, tutto digitale quello lì, se lo vedo la scatola di chiavi, il presidente Barri sto usando, è piccolino, va bene, va benissimo, avanti la macchina. Tu sei l'899, no? Sì, 899, 899. Tutto liscio liscio. Tutto liscio liscio con la piccola antenna. Ma va bene quell'apparecchietto, io l'ho preso, l'ho usato una sera, poi l'ho messo dentro la scatola, qua dentro la scatola. Già un anno e più. Io lo sto usando, ogni po' lo metto in funzione, se no se via la ruggine. Non lo so, va bene. Vanno abbastanza bene questi apparati qua. Vanno bene, a voglia, cazzo. No, lo so che funzionano bene quelli lì. A voglia. Ma lo conosci fra l'Inter che ho 899? Deve essere assentato Gian Maria. Deve essere assentato Franco. Ah, ecco. E non l'ho sentito. Vabbè. sera, bene, Store è andato a prendere la 50, si è rientrato dopo adesso. Sono mangiato la formica. Sì, a Store, lo so mangiare la formica, si rientra. Si arriva, se la vi ritorno adesso, che ora sono? Meno 10, meno 4, è già il ritorno. Vicino, caspita. 20 minuti andare a tornare, a prendere qualcosa dell'altro, 20 minuti ed è qua, ancora magari sta rientrando là. E poi bisogna fare fretta a posteggiare, io vengo dal freno, si apre la sportella, mi cade tutto in terra e via, chiuso. Proviamo a chiamarlo per il dottore, ma ancora non ho aperto lo sportello, dai, batti tutti che è ancora dentro. Il dottore è ancora in viaggio, sta viaggiando solo, a 100 all'ora sta andando. Se non a 100 all'ora trova la bimba mia. Ehi, a 100 all'ora, ovvia. Posso da camminare su queste strade, per carità. Dove si aspetta a sapere i buchi, tutti i buchi, ci strati, ovviamente, qualche volta specialmente, per carità, certo, tutti i buchi, sto sempre facendo, ascoltami, e mi facciamo di prima. Per forza, sono lo strato buono, cavolo, ciò che ci mette la mondezza, come le prime piogge, tutto pure a me. E per forza, sì. Il materiale che stanno usando sto piazzando, per carità, vogliono risparmiare con la gente, non sanno cosa fare di soldi adesso. Ogni acciaffo, oh. E garechito. Questo è incavolato, picchiandomi, aoia aoia, devo dire. Mette la scuola, batti, mette la scuola, fuggitino. Fuggitino. E quando è vicino. Vicino di canali, vicino di casa, vicino di tutto, si deve una cosa disturbare. Ma chi non era lui, non era Luca, era un'altra persona, era sui denti, adesso ci sono spostati, dai. Arrivato c'è Marino. Marino è arrivato avanti di Marino. E l'ho sentito. E vabbè, su denti era. È per quello, ma così è. Sono girato così veloce, ma non parecchio, ho visto la lancetta, ho girato e ho sentito, sono tornato da Maurizio, grazie di bella. Ho visto la pedra, la pedra parecchio, ma... Sto usando l'889, però in questo, adesso lo squeeze, chiuso tutto, proprio ha fatto anche lo scatto, chiuso, entra. Aspetta, uno è la sua Carbonacci e l'altro è il suo Almonte. Forse sono, vabbè. Prendiamoci quello che viene, dai. Non posso farci nulla. Forse sono di costruire i padri e basta. Avanti, sono lì. Cosa faccio io quando c'è Emanuele? Da entro a poco, Emanuele. Ma se si entra io... non sento più nulla, devo per forza andare in quel canale, anzi lo sento anche male in quel canale, sullo stesso canale, puoi immaginare, e succedono anche queste cose, e purtroppo cosa vuoi fare? Il fatto che si lasci di cielo, ma chi, come prima, allora, però se uno può evitare meglio ancora, là. Però ho visto che si sono spostati e hanno capito già che non andava bene e sono partiti là. Va benissimo come hanno fatto, vai. Farci anche loro, le prendevano e dunque si disturbavano uno con l'altro, molto bene. Meglio così, là, andiamo di lusso, avanti Marì. E si stavano scambiando un pochino, dai. Si sono su 10, si sono spostati per disturbare e sono ritornati là, tutto qua. E così ne prende il sacco della palestra, no, va qui. E beh, mi dà un bel giugno. E Giovanni, ma Fiorellino con te è a fianco, per quello lo senti così ostacolo e cose. Se è attaccato ce l'hai, ti ricordi. E c'è forte, Emanuele, c'è una bella modulazione, bella robusta, le potenze forse. Va bene, la gentilità, sto là. Avanti, Giovanni. Si è attaccato a me, cazzo, per forza, ma è così, no? È chiaro che io ho sentito la colazione, allora lo devo fare. zero direttamente allo stretto, anche il Mike Gellerly, e insomma mi regolo così, se no non riesco a capirne niente, capito? Tra il Mike Gellerly e lo stretto e riesco a sentirlo quasi perfetto, dai. Ma la vicinanza è così, si apre la finestra, gli tocco la mano, si può immaginare. E appunto, appunto. Bene, bene, bene, bene. Avanti, signor gigante. Male, male, male, male. Adesso non prendo più di questo, no. Tu vuoi che vada i bivi? Sta cominciando a rompere il 889, il PTT si incanta. Si incanta come mai? Sono, adesso è incalcato, no? E ne salta, salta il canale. Oh, ma no, non lo prendo, non lo conosco bene per sospetto. Io l'ho provato e l'ho ripreso sulla scatola. E non l'ho toccato più, però so che è un apparecchio abbastanza tranquillo, capito? Ma se salta vuol dire che c'è qualche cosetta. C'è qualche cosa mollata magari, c'è, cioè, bisogna che lo guardi. Oppure sto pensando che sia qualche saldatura alla fredda. L'apparecchio nuovo, cazzo, ma... Cose che succedono in famiglia sono, domani. Dunque, c'era qualche saldatura fredda, penso io. Bisogna 10 minuti di controllo, visto di che cruciche e via. Oh, può succedere, può succedere. Io avevo un portatile, no? Avevo, e ho ancora il portatile. Nuovo, l'ho tolto dalla scatola e ha chiesto Emanuele anche il portatile suo. E stavamo parlando, quindi, ma... nemmeno 5 minuti siamo stati, poi l'ho messo da una parte che mi hanno chiamato, ritorno e c'era il display spento, sto strano, cazzo, se stava funzionando e non funziona più, ma non c'è il display. Malato, malato, ma come la questione di ieri, della mia. Stavo parlando di essere tutto tranquillo, beato, lo spengo stamattina, stamattina l'ho acceso, credo, di 11 o quello del genere, venivo su 23, l'ago saliva, non sentivo la voce, forse sono in AM, ho cercato nulla, sono tornato in FM su 23, niente da fare, cos'era? È diventato muto. E questo è un apparecchio nuovo, che fatti? Cazzo, ci abbiamo parlato un attimino, Manuele. No, l'ho messo sul tavolino, rientro, ma 2 minuti nemmeno ci sono stato, sono andato e mi rappenso qua dentro, ho provato a accendere e spegnere, niente a fare, ho fatto la, come si chiama, che lo spegni e lo riaccendi per riaccenderlo normalmente, non lo fa, non si accende per niente, cazzo, dimmi tu, ma succede anche alla roba nuova, capito? Che c'è, Emanuele è entrato, avanti. Chi è per entrare, avanti? No, non c'è nessuno. Andiamo alla porta, se non se ne parla più, avanti Mario. Gio Mario, il fiorellino è impegnato questi giorni, la sbocchia e così via, proprio impegnato. Così è Gio Mario. È preciso quello di Emanuele, Emanuele l'ho dato io, no? Ne avevo due, scherza. È preciso quello di Emanuele, ci avevamo parlato così, tutto un tratto, boh, c'è spesso qua, nuovi, nuovo, nuovo, cazzo, boh. Succede Gio Mario, succede. No, io la apparecchiatura, sai, l'avevo messo a casa, accendo tutto, accendo, e accendo proprio da te. Poi ho voluto con uno, con l'altro, voluto senza. Ma no, scalda, non mi via, perché la si ferme, anche la folla, la cosa dell'altro, si portano, non si riesce a fare. Bene, avanti, gigante. Ma tu mi accendi un po'. Da ieri sera a stamattina, non sono passate neanche 24 ore, nello stesso punto che l'ho spento, l'ho acceso, nulla da fare, nulla, nulla, nulla, tutto tutte le luci si accendono, tutto bene illuminato, la portante va, però lui è muto, è sordo. Quindi va, va portato a San Amore allora, a San Amore. Un bel controllo e ci sta. Succede, succede una cosa nuova, figurati, che nuovo. Bene, sono io, avanti. Ma succede anche queste cose, ma io ho portato un televisore al bussare una volta. Beh, se la basta, lo accendo. Aspetta, lì stava funzionando perché l'ha fatto vedere. L'ho portato qua, l'uomo mi accende e lo funziona il televisore. Ce l'ho porto e la funzionava quando funzionava. Per due volte. Adesso dimmi tu cosa era successo. Non mai saputo nulla adesso, no? E non fa tocca, che ti tocca. Abbiamo trovato le, il sistema suo. E non era una cazzata. È l'antenna. Fate niente, una cazzata. Questo è come io sono da parecchio, sono da parecchio vecchio, fino vecchio, ma per 18, vivo già da quanti anni. Tutto va bene, il mio male è stato, visto molto, un slano. E accende, accende la pistola. Ah, ieri dopo la farò una cosa all'altra. Ma no, me l'ho girato, ho toccato l'attacco dell'antenna indietro, era già l'attacco slittato, dunque non facevo la marcia, capito? Non facevo la marcia, dunque non funzionava nulla. Ah, è un treno, però un treno, non lo locomotivo adesso, funziona come un corso adesso. Quando noi sono delle cazzatine adesso, poi si è svistato, non capito come quello ha svistato, io l'ho capito, boh, allora, boh, avanti da qui. E non è come quella cosa, Mario, la vado a svegliare solo sul comodino, quando vuole lei si accende, quando vuole lui no, tu la vai a usarla, adesso mi la do, cosa accende? Nulla da fare. Poi di un punto, un'oretta, due ore o tre, si accende da sola e rimane accesa. Sì, i vantaggi, vedo. Boh, è come il soggetto non si muove, sono le cazzatine della fattiglia, della fattiglia. Quindi c'ho l'avvento dall'alimentatore, bisogna una macchina che compri due interruttori per queste ventole qua, perché no, se non la uso rimane sempre inserita, sempre accesa. Due interruttori all'ingresso, no? Quando la uso al passo, torna sempre in sinistra. Avanti, domani. Ah, avevo un altro televisore. Certo. Non riuscivo a accendere. Te lo comando. Certo. Ma come mai in casa il fanno accendere? Lo posso, me la porto in campagna. E in campagna funziona. E qua lo funzionava. È già un anno come si è trinta la sedia funziona, il numero funzionava. Allora tu c'è la casa stregata, giovani, c'è la casa stregata, avanti da qui. Allora, mi piace la campagna, silenzio, io non voglio chiacchierare, questi apparati sono incredibilmente individuabili. Non so se i giorni vanno bene, domani vanno male, bisogna prendere come vengono, ecco. Oppure un figlio e poi tirano il contenitore. Sono rientrato, eh! E lui, avanti, buonasera. Buonasera anche a voi. Buonasera signor Marino, buonasera signor Bacchi. Però vabbè che non la intendivo. Vai Gian Marino. Ehi, ben rientrato ancora. Hai fatto fretta, Però c'è proprio, a 200 all'ora stavo andando, mi ha detto Bacchi, il sole cammina forte, è per quello che sei arrivato subito. Andato turrato e c'è cagliuta ai nomi. Avevo ragione. Lo vedo Gian Marino, io conosco la pecora. Quello andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Ma che c'è una canzone, non so io. Vero signor Marino? Non c'entro chi l'ha detto, non c'entro. Tu sei sto. Scusa, la canzone è per te, non è per noi, scusa. Vero Gian Marino? E allora? Ma a Fiorellino oggi lo si è sentito strano, L'ho visto con la tre rocce stamattina lì, la cona là. si pare che ci ha fatto la spesa per il cassonetto pieno e dopo è entrato sotto il portone a scaricare. Boh, non si è fatto sentire più. È impegnato, mi sento in modo di impegnato. Sta facendo quei lavori che tu sai è impegnato, magari vengo più tardi. Ho il stanco. E di mangiare in galoppo là. La facciamo, sta trasloccando piano piano e sistemando. Bene, bene. Avanti, signor Tore. Deve darsi quella che ne ha pigiata, deve darsi. Quindi non verrà mai a camminare, quindi non entra. Già è in galoppo, più tardi, magari sarà uscita la sua fiorellina, che non sappiamo noi. È giovane, deve mattanire anche lui. Avanti da qui. Ma domani il fiorellino già si innappia, domani c'è un po' d'acqua fresca, il fiorellino è tutto da viva. Oggi no, c'è un po' di caldo, ma domani c'è umidità, acqua e il fiorellino proprio si sviluppa tutto. Mi ha messo l'acqua domani, esatto, ha messo l'acqua. Bene, bene, dai, giovedì, avanti. Ok, lasciamo fare, Bacchi. Non è mai troppo, da noi non è mai troppo, Quanto sta così, sempre bella, serena, piano piano, fa troppo bene. La più importante è che non faccio danno e la scissione va sempre, l'acqua serve sempre, almeno se abbiamo acqua è in estate di più. Domani andiamo acqua senza la paura e la vedo un bene. E anche che magari quando andiamo parecchio loro la devo beccare per tenere un po' di bacchini e così via. E vabbè, sempre così. Avanti il suo letto. Non solo l'acqua, anche del vento ci abbiamo da domani, vento di maestrale. È tempo suo, domani abbiamo 20 e tutto va bene. E per quello dal 21 inizia l'autunno, l'inverno inizia. 21 novembre, vabbè. E da ora, da buon'intanto, avanti, batti. Ma io sono salito su e ho bussato, ho aperto la porta e ho detto domani cosa devi fare? E un poco d'eva e fa un poco di dinaga e si può volare se non hai bisogno. Uno perde la testa, non bisogna pensare, se ce ne sono va bene, se non ce ne sono stringi la cintola e va bene, vai sempre avanti. A Venezia, ieri in campagna, a voglia Zea, mi sono scelto anche i soppieni di Zea, aveva cominciato la Zea, vino ucciso, riparavo, a voglia abbiamo la banca. E quello che dice anche io, quella parte, è tutta salute quella roba, La roba è tutta salute. Certo, non è mischiata, non c'è veleni e roba varia. Originale, bisogna andare a prendere dove c'è l'originale, non dai i montinacci. E come c'è qualcuno andava a un capisaggio e gli mangiare la zea, da cui la vendia. La macchina, anche il camposanto era più bella, più grossa. E le cucine più nuove. E allora, cazzo, vabbè, e cazzo, cosa sa, cosa da pure a fare, non lo fai, perché la mangiamo con me, e non è molto, Più sano è isso. E allora, davvero, prima me ne siamo bene, ma non mi ne cresce di più, Rubicca va crescendo bene. Un bel di rubicca è crescente. Ah, la rubicca è buona, ma te? Tutto è buono, insomma, lì tutto è buono. E in campagna non viene, la rubicca in campagna non è buona. Non so, che marcia così, statoriamente. Però la tanca va a campagna, e è un tempo che più lì è tutto giallo. Allora è bella vennala. Apre la zea, burro, la zicoglialisti, un po' di tutto sulla ciappa. Beh, ho preso, è il periodo brutto. Sì, adesso è il periodo. Ma la zea fa il diverso, certo. o mangia insalata oppure vai al fittato e poi metti in qualsiasi cosa, per cui va bene, va. A chi piace, ce ne sono altri che non piacciono per la sera, perché a me mi piace parecchio. Io la mangio la frittata, la mangio con i piedi e fa bene nel giro. Va benissimo, avanti, va bene. Sì, è così. Bisogna andare anche più vicino a farla. Sole, come stai usando? Il presidente. Ma io la mangio lui, dai. No, perché ti stavo andando da qua, sono andato a con l'apparecchio. Dai, quello, dai. Allora, sul Marchisio. Perfetto, stiamo mettendo appunto il volume. Mi è entrato un po' il correme, stavo monopolizzando, avanti. Buonasera. Buonasera anche a lei, prepotente. Io saluto, buonasera a tutti, dai, scusate se sono entrato così di brutto. Buonasera, mi stavo ascoltando, è come se fossi in nota perché mi stavo ascoltando. Ciao Zani, buonasera. E no, guarda, quando sei entrato verso il centro euro sei a posto. Avanti, comunque buonasera, avanti Gio Maria per Gianni. Avete parlato in due. Siamo a Gianni, buonasera per entrare. Vai tu. Buonasera Gianni. Certo, tu sei che te ne affutti, più di me. E anche tu no. Vecchio, siamo sempre altri. Vecchio, guarda, io e Battino, noi siamo giovani e andiamo a lavorare, vero Battino? Sicuro di sì, è sicuro di sì, bisogna lavorare. Chi non lavora non fa l'amore, dunque i clienti non travaglia nulla, e manco di una bisogna. Già vieni giovani, Battino, già vieni giovani, vero già. Bisogna fare due, di una. Gianni è fallito. Gianni è un telebicco, Ah, è al telefono, l'ha chiamato... L'avevo chiamato. Poi avanti. Luello. Cosa ci vuoi fare? Dai, paga là. Pensa un poco. E dove vai di adesso? Non è venuto niente. Non c'è nulla. Avanti, Giovanni. Ma io rivengo, mi ha scatta, la previsione. Scatta. Ma non vuoi più un po' carone. Ma non fatti lo fatti vedere, sono e basta, l'altro e se lo fate vedere anche e basta, capito? Questo vallo, se lo fate solo vedere. Esatto, ma mettiamo un po' di salute, là, ma ci vedo il sogno, anche i sogni stanno bene, ma io penso la salute solo, vado il sogno intanto. Avanti, signor Gianni. Gianni, non l'hai preso, avanti, gigante. Niente, questo Gianni è come un gribicco, c'è anche una bassa all'acqua. E così è la vita. E ciò che sono come dolore che si lascia in piedi. Ma già vi dico, meglio dici che nulla. Beh, non so, meglio che nulla, avanti. Poco a poco siete andando, avanti. Sì, poco a poco sempre andando. Sì, sì, non so. Siamo bene, andiamo. Andiamo bene, andiamo avanti da qui. Sì, adesso torno, mi ho promesso un regalo per Natale. Non so cosa mi regala, boh, c'è qualche radio, qualche ricevitore, un amplificato di lusso, non lo so, io lo scelgo, lascio spare a lui, ma lì. Io il regalino per tu è che l'ho già pronto, è già incartato, ma non sai che l'ho pronto, lo si dice, dice peccato, lo dice peccatore, avanti domani. Lasciatelo fare, lasciatelo fare, sto... Ah, questi zini, sta a fare la reccia. Mi dà pure la reccia, arrivederci. Tutta qui pa' di marino, me. Dai, che virare, Dina. Che virare, via. Io ci ho preso fresco la mattina e sono vissuto in giro. Una cosa che ci ha fatto, Dina. Oggi, manco, ma poi c'è il tempo in terra, manco c'è il tempo, non sai. Non siamo che volta che ha preso solo gente a capaterra cercando le cifre, i centesimi, qualcuno vanno le gabbiette fuori se ci mettete la cifraniera o le macchine da caffè lo stesso. Sta male da per il giro, avanti Giovanni. Marino, ti stanno chiamando. Avanti che mi sta chiamando? Avanti, chiama Marino, ti ha risposto Non ti sento. Aspetta, io ti sento, ma evidentemente Marino non ti sente. Perché sei un po' basso, chi sei? Sei un uragano. Ma chi è Bruno? E aspetta Marino. Chi sei, uragano sì? Ma il vecchio Rogano? E beh, cazzo. E come mai? Ma tu Bruno sì? Perché si sente? E io si sento benino, La radio è perfetta. Per cui non un quarto, vai come radio. Santiago è quasi zero. Non fa tanto bene o male che lo sentiamo, grazie. Eravamo due giorni, non ci sentivamo. Ah, ti ricordi, sì? Magari i passaggi brevi non succede niente, capito? Ma non fa passaggi brevi così che non succede niente. Ok, vediamo un po', ma arrivi, è lui, Bruno. Ma io non lo sento, ciao Bruno, ma hai sentito dopo due che non ti sento. Guarda, ti stavo pensando anche l'altro giorno, guarda, anche l'altro giorno che ero sotto il tuo, sotto casa e ti stavo pensando. Adesso sono troppo incasinato, dopo venire trovato, ma ero troppo incasinato. Probabile la prossima settimana che ti faccio una bassa e venga a trovarti che dobbiamo parlare, tutto qua. Vediamo se Bacchisio si è sentito, Bruno. Ok, Bacchisio, Bruno, l'hai sentito? Mezzo a QRM, pio proprio, pio, mezzo a QRM. Ciao Bruno, buonasera, ben ascoltato, non direi, ma ben sentito, lo stesso. A sentirci. Cerca di mettere un piede più fuori dalla finestra, Bruno. D'accordo, Bruno, fate piacere, cioè. La foto mi sembra che ci siamo sei l'anno scorso magari, siamo visti lì, vicino alle porte, ti ricordi? È vecchio, non sei così vecchio, certo. Sicuramente è giovanissimo ancora, per cui siamo ancora giovani noi, dai. Insomma, l'importante è che ci sta la salute e poi il resto se le vede più piano, capito Bruno? Comunque, veramente un piacere averti sentito, dai, dopo tanto. Bacchisio si sente pio e a malapena, magari tu non lo senti anche lui in condizioni precarie. Però se c'è da questo giorno dovresti stare anche più bene, però con quell'attenino che tu hai attaccato al baracchino, se riesce a sentire Dio dovrebbe sentire anche bene anche Tore. Tore, allo senti a Bruno. Io lo sento benissimo. Catta, non intendo. Catta, buonasera, uragano, signor Bruno, e lui, e anche non si sa che sono. Ciao Bruno! Chi vuoi che sia, non riconosci il doppio room, cambio. Allora, da Fusaro, perché da Fusaro non puoi andare, ci sono, guarda, queste boomerang che sono favolose, sono delle boomerang che stanno comprando tutti e escono benissimo, da tutte le parti arrivano. Tu vedi tu, con che apri che stai facendo? Con la faietta? Ah, per la macchina? Sì, ce l'ha Fusaro. C'ha le mini turbo, c'ha, quelle che sono corte e vanno bene. Ciao, ciao. Preparati, 45 euro più la base magnetica se non vuoi bucare. Okay. Avanti, fate girare, dai, che lo voglio monopolizzare. Macchina, si riprende. Fusaro. Prendo io. Ciao Bruno, buona serata, alla prossima, a sentirci sfidando migliormente. Avanti Marì. Aspetta un attimo, riprendo io, ho attaccato da apparecchio, non è che con la trasmissione intera riesco a sentirti, proprio sei pio e QRL. Ok Bruno, già quale settimana ci sentiamo, anzi domani devo fare il giro e dove passare sotto casa tua, ma la prossima settimana sono leggermente un po' libero dopo le scuole da basso. Da passo ne parliamo, là. Ok, ciao Bruno, ben sentito, ma ben sentito, no, perché non ci sono neanche...